facciamo una sega quest'anno. E tu gli credi? Magari se vinciamo ci chiamano a giocare in Italia. Ma che ci andiamo a fare in Italia? Dicono che lì il rugby si gioca dentro stati grandi come quello del Boca. Vinciamo il campionato, ci facciamo invitare per una tournée, eh? Che dici, Turco? Pensa a finire il riscaldamento, Michelito. Tra 10 minuti comincia la partita. 27, 28, 29, 30. Consuelo fa la parrucchiera. Capelli lunghi e rossi. No, quella è Maria Salvatore. Ma che cazzo, Santiago? Ma non ti fermi mai tu. Se mi fermo finisco come te, Turco. Perché come sono finito io? Sposato e con 3 figli. Ho 30 anni. Appunto, sei vecchio. E tu sei stronzo. Quando avrai la mia età, questo affare di noi ti sarà caduto da un pezzo. E tu invece con tua moglie? Con mia moglie cosa? No, niente, così. Santiago, io lavoro tutto il giorno, mica come te che piccio ancora a letto. E me lo chiami lavoro quello? E che cos'hai il mio lavoro? Cucini, compare. Non cucino io, ma sono un Ma vorrei non fare il pico, faccio il pane. E poi te lo mangi, papà, che panza! Ma che porti qui lo sfilatino caldo di forno, eh? Olio, un po' di origano, un peperoncino, l'aglio strofinato sopra! Mezza! L'aglio no! Perché? Perché poi puzzo? Quando bacio puzzo. Io se puzzo è meglio, così mi mischia e scappano tutti. Ma se per questo tu non hai bisogno dell'aglio, dimmi. Sciacquatelo, cagliari. Turco, ma quanto ti pagano al forno? 300 peso alla settimana. Ma mi alza l'albo ogni mattina. Va bene, danno solo 200. E per forza, Mariano, non fai un cazzo. Impiegato dello Stato. Postino. Sì, chissà quanta roba ti porti a casa invece di consegnarla. Lettere d'amore. Poi le apri, le leggi. Amore mio, vedo via. Da quando sei partito? Sono seghe. Ma pensate solo a scopare, voi. Sì! La Guzzi di Raul è sacra. Dice che gliel'ha lasciato il cieco. Quando il comandante Guevara è morto, Raul si pisciava ancora addosso. Gliel'avrà tenuto da parte. Ciao, Raul. Perché quella faccia? Diego è scomparso. Come è scomparso? Da 2 giorni. La madre ha fatto il giro di tutti i commissariati della città. Cosa hanno detto? Le solite cose, non li sa nulla. E lei gli ha creduto? Che ti importa se gli ha creduto? Magari se ne sono andato fuori con la fidanzata. Diego è un ragazzino. Alla sua casa proprio come un riccio. Diego è morto. L'hanno trovato un'ora fa, al fiume. Annegato. Ammazzato. Aveva le mani legate dietro la schiena e un buco nella testa grosso come una noce. Mi hanno chiamato dall'obitorio per il riconoscimento. Com'era? Gonfio d'acqua, gli occhi spalancati. A terra, con un lenzuolo sporco che lo ricopriva tutto. Chi è stato? Non lo verranno a dire a te chi è stato. Diego, amico mio, io voglio sapere! Non c'è niente da sapere! Diego è morto! Ma gli hanno sparato in testa! E se gli sparavano al cuore, che cosa cambiava? Se sparavano a te, invece che a lui, cosa cambiava? Andate a giocare. Forza! Sarà un minuto in campo. E se qualcuno non se la sente, può tornare a casa. Chiediamo all'arbitro un minuto di silenzio. No! Perché no? Facciamo la nostra partita e basta. Tutto il resto lasciamolo fuori da qui. Il resto si chiama Diego, cazzo! E leggi tu i giornali? Che c'entrano i giornali? Comprati il Clarin domani. Non vedrai una sola fottuta riga sul vostro amico. Come se non fosse successo nulla. Se non facciamo il minuto di silenzio io non gioco. Io nemmeno. E tu? Raul. Facciamo un minuto di silenzio, mister. Altrimenti oggi non gioca nessuno. Voi non capite. Ho parlato con sua madre. Mi ha detto che Diego vedeva della gente strana. Buenos Aires è piena di gente strana. Se l'è cercata. Diego aveva solo 17 anni. Per loro basta. Loro? Loro chi? Io in queste cose non mi ci voglio immischiare. Ma quali cose? Di che sta parlando? Non sto parlando del tuo paese, coglione. Sto parlando di quello che succede là fuori. E tu devi starci lontano, hai capito? Devi pensare a rugby e basta. Adesso fatemi giocare, forza. Un minuto passa lento come la vita, come la morte. È lento, avanza piano. Segna il passo, canta strofe tutte uguali. Un minuto e rumore di seconde che non si incontrano mai, che non finiscono mai. Francisco del Croce Fuentes, dentro il turco, la Tossalta in montagna, il 14 settembre 1948, quando un gioco lavoro in un panificio, piazzo all'alba, impasto il pane, nel forno, me la passo meglio in campo, gioco centro, nella mischia mi sistemo dietro ai miei compagni. E quando ricevo la palla la difendo come se fosse quella puta di mia madre! Mariano Benitez, Buenos Aires, primo gennaio 1955, faccio il postino. Mi infilo 100 km al giorno per le case di Recoleta e poi arrivo al campo. E faccio 100 volte il campo, in su e in giù, con gli altri dietro che non mi acchiappano mai, ma proprio mai, fino alla fine della partita! Santiago Sanchez, nato da qualche parte sul Rio della Plata il 13 agosto 1956. Io non lo so di chi sono figlio, nemmeno che mestiere farò, ma quando mi arriva la palla me l'attacco al petto come un figlio ritrovato e me ne vado via senza nemmeno mettere i piedi per terra. Miguel Blanco, Cordoba, 9 aprile 1958, studente, ho 20 anni, non mi piace avere 20 anni. Capite che stai in mezzo a troppe cose e io voglio stare in mezzo al campo e basta. Otilio Sosa, Buenos Aires, 23 novembre 1955, lavori in una conceria, belli da lavare, strigliare, ripulire, cucire, in campo gioco seconda linea, quando ci sono le douche tocca a me farmi portare verso il centro a prendere quella palla che mi arriva sempre un po' sporca, smanacciata da tutti come se ognuno volesse salutarla prima che io me la porti via. Raul Barandarian, figlio di contadini, nipote di Mandriani, nato qui a Buenos Aires il 15 aprile 1957. Io voglio giocare sempre questa partita, la prossima, tutte quelle che arriveranno. Per questo me ne sono andato via da casa, per giocare a rugby ogni sabato, ogni domenica, ogni santo giorno. Ogni volta che mi guardo le mani e mi sembra strano vederle così vuote, inutili, a me le mani servono solo per afferrare la palla, per infilare le unghie nel cuoio e per prenderla a morsi dopo ogni meta. Io da grande voglio fare il medico. Anche Diego voleva fare il medico. Dove lo hanno fatto secco, Diego? Che cosa si è portato via? Negli occhi. Quando lo hanno ammazzato. Notte. Cielo. Acqua. La faccia di uno di quei bastardi. Filo di ferro attorno ai polsi. La canna di una pistola che spinge sulla nuca. Aveva 17 anni. Figli di puttana, 17 anni. Credete che ci basti un minuto? Ne passano 4 di minuti. 5. Poi sei. Tanto nessuno ha fretta di fare. Nessuno ha fretta di dimenticare. 8 minuti. 9. 10. Campionati mondiali di football, uno spettacolo da farsi gli occhi lustri. Tanto che gliene forbe agli italiani e ai tedeschi delle cose fittose che succedono in Argentina. Che cosa gliene fotte ai russi e ai brasiliani se Jorge Rafael Videla si è proclamato presidente a vita e si sta incurando il paese? Che colpa ne hanno i francesi e gli olandesi se lui e gli altri contrammiragli, le eminenze, i generali, si sono messi in testa che l'Argentina va ripulita così, a colpi di ramazza e di baionetta, scopando via teste calde, teste rosse, anarchici, pederasti, barbe lunghe, facce da frocia. Comunisti, socialisti, vagabondi, peronisti, radicali, suori, sindacalisti, puttane, studenti, montoneri, i professorini dell'università statale, i pacifisti dei miei coglioni, tutta gente malata dentro, perdito, senza dubbio. Che dobbiamo fare, signori miei? Lasciare che il paese se lo prenda da loro? Che rientrano la testa ai nostri figli di cazzate che sono lì, che li facciano diventare comunisti. Che dobbiamo fare? Me lo dica lei, cosa farebbe se li avesse visti pisciare sulla patria, sulla bandiera, sulla divisa, sulla croce, sui sacramenti? Noi lo sappiamo bene quello che c'è da fare. La prima cosa, eliminerei i sovversivi, poi i loro amici e infine gli indecisi. E adesso, che cosa sono quelle facce? Avete paura? Ma pensate alla festa, cazzo! Tra un mese si gioca il mondiale e l'Argentina si porterà a casa la Coppa del Mondo. Ci potete scommettere? Che scommettere su queste cose non è reato, e nemmeno peccato. Scommettere sui nostri calciatori, tutti ragazzi senza capelli in testa, senza capelli lunghi, senza comunisti in famiglia. Scommettere che l'Argentina va a ganare è una cosa patriottica. Sei sempre stato un pessimo attore, Montonero. Anche nelle recite che facevamo a scuola. E tu hai sempre quella faccia incazzata, Pereira. Tra giancati come noi occorrono le buone maniere. Che ci fai tu qui? Ho visto tutte le partite della tua squadra. Siete lenti in mischia, ma avete una tre quarti che da sola vale il campionato. Ragazzi cazzuti, complimenti. Anche quel piccoletto, com'è che si chiamava? Diego. Ma che cerchi? Ti hanno spaccato una gamba quando arbitravi e vendevi le partite. Vuoi che ti stacchi anche l'altro? Toglili le mani di dosso. Ma chi ti ha dato quella pistola? La patria. Ma vaffanculo, Montonero. Non mancare di rispetto all'ufficiale dell'armata. Quale armata? L'armata dell'Argentina, idiota. Il nostro glorioso esercito. E tu che c'è? Vedi, Pereira, io non sono più l'impiegato di concetto del Ministero dell'Educazione. Sono il capitano Riccardo Chedulfo Montonero, promosso ufficiale dell'esercito 2 anni fa per alti meriti patriottici e aggregato ai servizi per la sicurezza dello Stato, mentre gli altri miei colleghi sono rimasti inchiodati alle loro vite di merda, nelle loro case di merda, con mogli lagnose e figli nicchio. Bastardo, l'hai fatto ammazzare tu, Diego? Noi? Noi non ammazziamo nessuno. Facciamo quello che fanno anche i tuoi giocatori quando sono in campo. Rivediamo gli errori degli altri. Tu sei pazzo. Non sono pazzo. Ricevo ordini, di esempio. Anche i tuoi giocatori prendono ordini da te senza discutere. Che cosa sarebbe il rugby senza il senso della disciplina? E cosa sarebbe diventato questo paese se non ci fossimo stati noi a fare pulizia? Ammazzando i ragazzi? Quello stronzetto era fottuto comunque. Una testa pazza. Ancora un paio d'anni ce lo sarebbero ritrovati insieme ai Tupamaros a mettere bombe sugli autobus. Non meritava quei 10 minuti di silenzio. Tu non sei una testa pazza, vero Pereira? Tu vuoi vivere. E che c'entra? Tutti vogliamo vivere. Tu più degli altri. Ma cosa ne sai? È vero? È vero. Bisogna morire tutti prima o poi. Ma non così! Senza un motivo, senza prima farsene una ragione. Io non ci credo in questa vostra guerra. Non mi appartiene. Mi sembra tutto finto, le tue parole, Montonero, la patria, la bandiera, la storia. Neanche la morte di Diego, crepato a 17 anni, con la testa piena di fantasmi e di rabbia. Ma che cosa voleva? Dimmelo tu, Pereira. Doveva vivere, ecco cosa doveva fare. A cosa gli è servito morire così? E a voi? Cosa gli è servito ammazzarlo come un cane? È servito al paese. Stronzate! Ecco perché tu vuoi vivere. Perché non credi più a nulla. Io credo che mio padre è emigrato dalla Sicilia 60 anni fa per non dover incontrare ancora gente come te. E io credo nel mio lavoro. Credo in quella cazzo di palla e nelle gambe dei miei ragazzi. Li faccio correre per tutto il campo e gli insegno a non mollare mai. A nascondere la palla quando l'avversario preme e a ripartire tutti insieme per andare a prendere una meta. Io credo nel rugby, ecco. Bisogna restare vivi per giocare a rugby. Che cosa vuoi? Vattene, Pereira. Ritira la tua squadra dal campionato. Vatti a fare un giro in Europa. È l'unico sistema per salvare il culo a quei ragazzi. Thank you. nero. Vi è piaciuta la partita? Belle fighe in tribuna? Giocano bene, sono bravi in mischia e hanno due ragazzi all'ala che corrono veloci. Se non perdono con quelli del corpo quest'anno si portano a casa il campionato. E a noi che ce ne fotte? Dicevo così per dire. Che facciamo? Archiviamo la pratica? Possiamo stare tranquilli che là in mezzo non ci siano altre teste calde? Se devo dire la verità... Parla! Quel ragazzo, quello che abbiamo arrestato... Diego Moreno, un delinquente. Oggi i suoi compagni di squadra gli hanno dedicato un minuto di silenzio prima della partita. E che cazzo, Montanero! Adesso ci preoccupiamo anche di quelli che stanno zitti? Certo che no, signor colonnello. Meglio zitti che comunisti. Meglio zitti che bandini. Allora, dov'è il problema? Sono stati zitti per 10 minuti. Come? 10 minuti? 10 minuti, signor colonnello. Li hai contati? Li ho contati. Tutti? Tutti. E 10. E il pubblico? Non volava una mosca, signor colonnello. Colpa di quegli imbecilli che dovevano sbarazzarsi del ragazzo. Gli hanno messo 2 sassi in tasca, lo hanno buttato nel fiume e se ne sono andati. Signor colonnello. Un cadavere ritrovato porta sempre un funerale. E un funerale porta sempre rotture di minchia. Signor colonnello. Cosa, capitano? Cosa? Posso sedermi? Quei 10 minuti di silenzio, oggi, al campo, non erano un funerale. Sono stati una provocazione, una premeditata provocazione contro di noi. Dici? Dico. Contro di noi. Contro il nostro glorioso esercito. Contro la patria. Che faccio, colonnello? Stai addosso a quei bambocci, Montanero! Quello che pensano, quello che combinano, chi incontrano, con chi scopano. Non sentirà più parlare della squadra di La Plata, signor colonnello. Ancora una cosa. Capitano, quel bastone. Cos'ha? Il mio bastone. Dove sei andato a pescarlo? Voglio dire, con quel pomo d'argento e tutto il resto. Un rigattiere, uno a cui abbiamo chiuso il negozio, era iscritto al sindacato. E da Froci, Montanero! Un bastone con il pomo d'argento nell'esercito? È una cosa da froci! Sbarazzatevi! È un ordine! Tu che dici? Dico, è un ordine. È da froci, Montanero. Punto primo, io so uccidere, meglio di chiunque altro, e potrei farlo anche adesso. Sarebbe sufficiente che quel gentile signore mi dicesse chi vuole che mi ammazzi. Un politico, un giornalista, un vicino di casa, o forse l'amante della moglie, senza offesa, ci mancherebbe. Essere il migliore vuol dire fare quello che devi fare senza passare per un dilettante. Discrezione, competenza, precisione. Avete fatto caso a quanti invitti si lasciano alle spalle quelli che non conoscono il mestiere? Un pro, testimone, posto, rumore degli spari, la carga del mare. Io sono un professionista, faccio solo lavori puliti. Mi dicono dove andare, chi cercare, E allora io vado, cerco, uccido. Obbedisco. Perché sono un soldato. In guerra in fondo non occorre altro, nemmeno l'odio, solo un ordine del superiore. E poi, se non ammazzi i tuoi nemici, saranno loro ad ammazzare te. Questa invece è una cosa della sua classe, 10 ottobre. Dice che quella di chimica lo vuole bocciare, ma che lui gliene frega poco se lo bocciano. Tanto io con la scuola ho chiuso. Non è più tempo per rimanere a nascondersi in classe, non è più tempo di aspettare. Ma aspettare cosa? Non lo so, no. Non lo dice. 18 novembre. Che c'è scritto? Tu lo sapevi che stava con l'Unione degli Studenti? Ma chi? Diego? Ti ricordi quando hanno tolto lo sconto sui libri di testa agli studenti? La protesta davanti al ministero. C'era un sacco di polizia quel giorno. E Diego era lì. Non me l'ha mai detto. Quindi loro sapevano che Diego stava con quei pazzi dell'Unione. E l'hanno preso per questo. Loro sapevano tutto, Raul. E adesso che cosa farete? Continueremo a giocare. Senza Diego. Lo abbiamo sostituito con un ragazzo delle giovanili. Non ci credo. Cos'altro avremmo dovuto fare? Ma Diego era tuo amico. Era amico di tutti. Sì. Tu però l'hai visto crescere. Sì. Abitava giù a Sant'Elmo, il quartiere in cui erano andati a vivere i suoi genitori quando erano sbarcati in Argentina. Sai una cosa? Diego diceva che era felice di vivere laggiù. Diceva che le case erano miserabili, le ringhiere arrugginite, il gabinetto in comune in fondo al ballatoio e quell'odore di cose cucinate troppo a lungo. Però lui era felice. C'era un albero di gelsi, era in mezzo al cortile un vecchio gelso così grande che io e Diego insieme non riuscivamo ad abbracciarlo. E quell'albero era diventata la cosa più importante di tutta la sua vita. In estate faceva fresco con quelle foglie larghe come padelle e a dicembre gli appendevano le palle di vetro finto per fare Natale. Così dalle finestre di casa sua non avrebbe più visto le solite finestre. Le solite ringhiere arrugginite, le solite case tristi, come questo paese. Ma perché? Perché non me l'ha mai detto cosa stava facendo? Perché non me l'ha mai detto? Regalami un sabato, Raul. Per fare cosa? Ce ne andiamo al mare. Mi porti alle baracche, giù alla Boca, dove friggono la pranza, dove penso sta cartoncino. Domenica giochiamo, io voglio pensare solo alla partita. Solo un sabato, Raul. Ci leviamo dalla testa questi pensieri di morte. Ci raccontiamo dell'amore, della vita, dei figli. E quali figli? I figli, Raul. I figli che faremo? Io sono ancora giovane. Ma se fai 21 anni fra due mesi, sei libero. Antico come un soldato. Tu sei felice con me? Sono felice con te. E allora sabato andiamo al mare? No. Ma come fai a dirmi di no? Io lavoro tutta la settimana e quella miserabile dopo la calda. a lavare tazze, a cucinare frittate dal mattino fino a quando fa sera. Tu ti rovinerai la vita a respirare olio fritto tutto il giorno per 4 soldi. Mi rovina la vita, la paura di perderlo questo lavoro. Altrimenti di che cosa campiamo? Quando facciamo un figlio? Quando diventiamo una famiglia vera? Io e te siamo una famiglia vera. Sì, io e te i tuoi compagni di squadra. Io e Reppi non ci rinuncio, Teresa. Io non ti sto chiedendo di rinunciarci. Io ti chiedo solo un sabato. Ma Cristo, che cos'è un sabato al mese? Andiamo al mare. Poi torniamo a casa e facciamo l'amore. Sabato sera mi fa tristezza. Lo fanno i vecchi sabato sera. E invece lo facciamo di no. E il giorno dopo, che è domenica, ci svegliamo e lo rifacciamo. Aspetto dopo l'allenamento, allora. Aspetto. Turco! Che ci fai laggiù? Vediamo decisiva a pisciare! Vatti a prendere quella cazzo di palla! Forza! Che cazzo fai, Turco? Ma che gli ha preso quello? Turco! Vieni con me! Che c'hai nella testa, Turco? Se giochi così quelli del bordo la sala non ci lasciano sotto di 30 punti! Non ho niente! È solo che... Ecco, il Turco. Piego era mio amico. Gli abbiamo fatto un funerale. Lo so. E poi? Quei 10 minuti di silenzio in campo domenica scorsa. E poi? E poi speriamo di non doverne fare altri, i funerali. E voi? Avevate il piombo al culo oggi? Tu, Santiago! Quella mucchiata di froci me la chiamo un pacchetto di mischia! Ve lo scordate il campionato! Se giocate così, vi scordate tutto, anche di che forma è fatto il pallone che vuoi! Mister, ci alleniamo tutti i santi giorni. Ah sì, eh? Se sei stanco del rugby, potevi restare a casa a giocare a carte con tua sorella! Vi ho preso che eravate dei ragazzini. Vi ho insegnato a giocare a rugby un poco alla volta, come si imboccano i bicciritti. Vi ho spiegato come tenere alti i gomiti della mischia e bassa la fronte per cercare il naso dell'avversario. Vi ho disegnato il campo 100 volte sul pezzo di cartone, mostrandovi dove non deve andare mai e cosa non deve fare mai, perché questa palla è come una fimmina sbagliata. È fatta male. Non rotola mai dritta, va per i cazzi suoi. E se state lì ad aspettarla, quella mi fa cornuti subito. E voi non siete cornuti. Voi siete la prima squadra del Club La Plata. E quest'anno dovete portarvi a casa il campionato. Capito, bestie? L'hanno ammazzato quei porci dei militari, vero? Sta zitto, Santiago! Dobbiamo stare sempre zitti qua! E fate bene! Perché non è venuto al funerale di Diego, mister? Diego, non lo riportate in vita, continuando a piangervi addosso. Andate a casa. Fate una dorma. E pensate che a noi tocca vincere il campionato! Solo questo! Tutto il resto viene dopo. Mi fa male? Questo è un dolore che si sopporta. Mi dispiace. Lascia perdere. Tutto. È vero quello che si dice? Che si dice? Che Diego l'hanno ammazzato perché era comunista. Io non lo so se era comunista. E se no, perché l'hanno ammazzato? Sono un ragazzino. E tu? Io che cosa? Tu che fai, Turco? Tu non sei più un ragazzino. Io mi faccio i fatti miei. Che altro dovrei fare? Io so quando va tirato fuori il pane dal forno per non farlo cuocere troppo. E so come devo fermare il mio avversario se quello vuole andare a fare niente. E come lo fermi il tuo avversario? Beh, se serve gli spacco anche una gamba, ma quello dalla parte mia non passa. Sono già passati, turco. E noi non ce ne siamo neanche accorti. Sabato sera ci vediamo con altri amici dietro le baracche di Puerto Madero. Per un po' di gente che lavora negli stabilimenti della carrettera notte. Operai, impiegati, postini, gente come me e te. Stanno cercando di rimettere in piedi una specie di sindacato. Ma i sindacati sono stati sciolti. Questo non l'hanno ancora costituito, come fanno a scioglierlo? Sono pazzi. Sì, credo di sì. Ma sei pazzo anche tu, Mariano. No, io non sono pazzo, ma se non faccio qualcosa io rischio di impazzire davvero. E che c'entro io? Io non ci capisco niente di queste cose. Non siamo amici. Normale questa storia di Diego, vero? A me comincia a farmi male tutto. Allora ci vieni. Domenica c'è la partita. A me piace andare alle volte. Ma che fare lo stronzo con me, turco? Andiamo solo a fare quattro chiacchiere con gli altri e ce ne torniamo a casa, d'accordo? Però ce ne andiamo a casa presto. Turco. A te dispiace? Ti hanno ammazzato Diego. Che non vi siete neanche salutati. Io sarei impazzito. Quando toccherà a me, prima voglio salutare tutti gli amici. Non riuscirebbe a distinguere un pallone dalle chiappe di sua madre! A tua madre il pallone glielo infilo su per il culo! E lui? Quando ho cominciato a giocare a rugby, il mister mi ha insegnato che questo pallone è carne mia, un pezzo del mio cuore. E se l'avversario te lo vuole prendere, prima ti devi staccare a forzi le braccia. Hai capito, Romito? Ho capito, mister. Bravo. Mister. Cosa? Ma perché non usa mai il bastone? Un vecchio zoppo che per giunta si appende a un bastone. Ma che minchia di mister sarei? Finirebbe che quel bastone lo userei per rompere qualche testa. Meglio di no, meglio sciancato che basta. Vamos, turco! Vamos, Miguelito! Vamos, Santiago! Vamos! Vamos! Vamos, La Plata! Sovversivi da giornale, nomi, soprannomi, padri, fratelli, sorelle di notte, che è scappato, che sta in galera, che è morto ammazzato, una guerra. E anche pazienza, prevenzione, prudenza e patriottismo. Vedrete quando ci riporteremo a casa le Malvinas. Tempo una settimana e l'inglese vi facciamo ritornare a casa al nuovo. Al secondo piano ci sono le celle, una fila di piccole, graziose caverne 2 metri per 2, senza cesso, senza finestre, solo una lampadina appesa al soffitto, abbastanza in alto per non permettere ai detenuti di con il filo elettrico prima di averci detto quello che noi vogliamo sapere. E nel sottotetto, voilà! Con una mirabile opera di ingegneria abbiamo ricavato una stanza per gli interrogatori, dotata di tutti i comfort e di tutti i più moderni ritrovati della ferocia umana. Abbastanza grande per interrogarmi 2 per volta, abbastanza lontano dalla strada perché non si sentano le urla degli scannati. Thank you. Domenica scorsa la seconda meta agli avversari gliel'hai regalata tu. Il tre quarti è partito a sinistra e tu la corri dietro come un coglione, lasciando solo quell'altro all'ala, uno che non avrebbe fatto meta nemmeno se glielo portavano in braccio fino in fondo al campo. Non è stata colpa mia. A destra doveva chiudere Santiago. Comunque da quella parte non sono più passati. Hai ragione. Di lì non sono più passati. Tu sei bravo in campo, perché quando fai una cazzata eviti di farla una seconda volta. Adesso hai due possibilità anche qui, ragazzo mio. Se fai la cosa giusta, salvi la partita. Altrimenti perdono tutti per colpa tua. Quale partita? Di che sta parlando? Ti sei cacciato in un guaio. Quella riunione l'altra sera per ricostruire il sindacato. Ma non ti sei accorto dei discorsi del cazzo che facevano i tuoi amici? Non sono miei amici. Facinorosi, perdi tempo, comunisti. Io non c'entro, io non sono comunista. Io non sono nulla. Però eri lì. E a me questo basta. Che vuole da me? Voglio che collabori con noi. Lo hai appena detto tu che con loro non c'entri nulla. Mi basta che ogni tanto mi passi qualche nome. Quelli che parlano troppo, quelli che fanno casino. Devo fare la spia. Devi fare il bene del tuo paese. Il Mariano? Il tuo amico è un rompicoglioni. Uno che se la fa col sindacato. Lo teniamo d'occhio da una vita. E poi gioca male, è lento, pensa troppo, non dà sostegno quando partiti il contropiede. A me interessi tu. Se collabori sei salvo, altrimenti sei morto. Allora, fottiti. Stai dando del tu. Si fotta! Te l'ho chiesto solo per scrupolo. Lo sapevo che mi avresti risposto così. Me ne posso andare? Lascio a te la scelta. Se preferisci ti consegno i miei ragazzi. Può darsi che loro riescano a farti cambiare idea. E magari così un giorno mi ringrazierai per averti salvato la vita. Oppure? Ti faccio fucilare subito senza permettere a nessuno di romperti le ossa. Sei stato un bravo giocatore. Non te lo metti. Io non voglio morire! Io non ho fatto nulla! Ma questo è il problema! In questo paese siete tutti convinti che non fare nulla sia una buona azione da premiare. C'è una guerra, Burco! Vuoi startene a guardare? Mi vuole far ammazzare per questo? Ma poi dovrai decidere da che parte stare. E se non lo fai adesso, che ti tengo per i coglioni, vuol dire che sei già dall'altra parte. E allora sparami tu, mezza sega! Fallo tu se ci riesci! Passami la pistola. Ginocchia un po' in testa per ciascuno. Mariano Benitez teneva ancora stretta in mano la pistola con cui ha ucciso l'amico. Prima di suicidarsi, due monitori è stato dichiarato la polizia. Due froci. Il turco e Mariano non erano froci. Mariano scopava tutte le sere con la sua ragazza. Una biondina di 18 anni, me lo ricordo, veniva a vedere tutte le partite. Il turco era sposato con tre figli. Li hanno ammazzati e basta, come Diego. Chiedetevi perché. abbiamo provocati. Quei 10 minuti di silenzio in campo domenica scorsa, dopo la storia di Diego. Pensavate di passarla liscia? Che facciamo? Ce ne andiamo. Ho chiamato un mio amico che è andato a giocare in Francia. Mi ha detto che ci prendono tutti lì da loro. Asilo politico. Gliela diamo vinta. Quelli hanno già vinto. Votiamo. Io ho già scelto. La squadra è una cosa, la pelle è un'altra. In queste cose ciascuno decide per sé. No! Il Turco e Mariano li hanno uccisi insieme. Allora anche noi decidiamo insieme. Chi vuole restare scriva sì. Chi vuole andarsene scriva no. Finiamo il campionato così lo mettiamo nel culo a quei bastardi. Ci mancano 3 titolari. Li andiamo a prendere dalle giovanili. Glielo insegniamo noi a giocare a rugby. E chi glielo insegna? Il mister se n'è andato. Torna. E se non torna? Torna! Vi ammazzano perché non conoscono i vostri pensieri e questo li fa impazzire. Vattene via anche tu, Raul. Lascia il paese. Devi dirlo agli altri ragazzi. Dovete accettare quell'invito in Francia. Sei solo un vecchio, mister. Noi restiamo! Sei tu che scappi! Tanto che per le foto! Ci paghiamo stento l'affitto, lo sai? Nella squadra. La squadra, Raul. La squadra. Quello è soltanto il tuo giocattolo. Tu sei un ragazzino, viziato come un ragazzino! Ma perché dici queste cose? Una volta eri contenta di fare la vita che facciamo. Una volta eravamo molte cose, io e te! Stronza! Io non voglio che qualcuno mi svegli nel cuore della notte per dirmi che ti hanno ripescato al fiume! Io non voglio vedere a riconoscerti al lapidario! Hai capito? Non voglio! Marcire dentro di umidità che manco se ne accorgeva. Da dove veniva suo padre? Dall'altra parte del mondo. Una terra bella e malata, come questa. Allora, Domenico, scate. Giochiamo. Ci sarò anch'io. E dopo? Avremmo dovuto farlo prima. Ce ne andremo dopo aver terminato il campionato. Da uomini. Stavolta non sembrerà una fuga. Ci crede davvero? Io credo. Io credo che uno di noi due dovrà restare in vita. Solo di questo sono sicuro. Perché? Perché qualcuno dovrà raccontarla questa storia. Mister. Allora, Ferreira, come è andato l'allenamento? Sono in forma i tuoi ragazzi. Che fretta. Fretta? No. Voglio solo allontanarmi da questo puzzo di merda. E io che 20 anni fa volevo essere come te. Uno che non chiede niente a nessuno, che va dritto per la sua strada. E invece mi scoppiavano tutti. Guardate Montonello, una boccuccia pure di camelina, le orecchie d'elefante. È sempre triste quel ragazzo, pensa troppo, non scopa mai. Come farà a diventare un uomo? Al tuo posto mi sarei sparato una palla in testa. Perché sarei impulsivo. Io invece mi sono arruolato e hanno smesso di rompermi il collo. Adesso fai il macellaio. Abbiamo ripulito il paese. Un giorno la storia ci darà ragione e quelli come te ci ringrazieranno. Quelli come me li manderete tutti in fondo al fiume. E perché mai? Se imparerete anche voi da che parte state. Dalla parte di chi ammazza? Ma tu pensavi veramente che noi ci saremmo tirati dall'altra parte mentre quelli si fottevano d'Argentina? Operai in sciopero, università in festa, disoccupati in piazza, giudici a far politica e politici a far baldoria. Cosa cazzo c'entrano i miei ragazzi? I tuoi ragazzi erano già uomini. A 20 anni sono solo dei ragazzi. Non è la morte che li rende uomini. Io li invidio quelli come te, Pereira. Sempre così santi, onesti, crudeli. A me è toccata una parte diversa. Sei solo un fantoccio, molto nero. Se adesso io ti togliessi quei vestiti carichi di lustrini, un panno per volta, un pennacchio per volta, io troverei solo un povero pupazzo che regge dalla parte che gli hanno assegnato, che cos'è il bene, che cos'è il male, chi merita di vivere, chi deve morire. Orgoglioso di essere diventato un assassino! Io ti sto spiegando il mio mestiere, perché bisogna conoscere bene il proprio lavoro, capirne l'utilità. Se ci metti lo spirito giusto, la dovuta diligenza, ogni lavoro è utile, anche uccidere. E sei tornato a fare? A giocarmi l'ultima partita del campionato. E con chi? Li abbiamo ammazzati tutti quei giocatori, strappati via come si fa con l'erba cattiva. Che vuoi? Io non dovrei essere qui, ma lo faccio per te, per i vecchi tempi. Sto cercando di salvarti la vita. Sei un bravo allenatore. Facciamo così, eh? Io ti metto in tasca un passaporto nuovo, ti carico sull'aereo e te ne vai a rompere la minchia da un'altra parte. Sei solo un pazzo. E tu? Sei un coglione. Io non me ne vado. Stronzo! Appendetelo! E poi ditemi quanto ci mette a crepare. Thank you. aprire la pancia a un cristiano. Vincevano di malavoglia fino a quando l'arbitro fischiò la fine della partita, la fine del campionato, la fine di tutto. Qualcuno dal pubblico comincia a cantare l'inno argentino. Udite, fratelli, il sacro grido: libertà, libertà, libertà. Udite il rumore delle catene spezzate. E in un attimo tutti gli altri si uniscono in un coro che si prende lo stadio intero. E canta anche lo zoppo Montonero nascosto in tribuna come un ladro. Cantano i picciritti della Plata, cantano gli avversari, cantiamo tutti, vittime e assassini, per l'ultima volta uniti e definitivamente divisi. Non feci neanche in tempo a rientrare nello spogliatoio che una mano mi toccò la spalla. Era Teresa. Mi guardò fisso negli occhi e mi portò via così com'ero, ancora sporco di fango e di pensieri confusi. Si era venduta quel poco che possedeva per comprare due biglietti della Corriera per Punta Arenas. 3 giorni e 3 notti attraverso una pianura senza misericordia. Lontano da tutte quelle parole sbagliate di quei mesi, lontano da quelli che si erano incantati a guardare altrove mentre il paese crepava. Lontano perché finisse ogni cosa, perché ci fosse un rimedio almeno per me e per lei. E poi amen. Signore, amen. Per favore. Per piacere. Amen. Quel giorno l'Argentina era morta. Morti i miei 20 anni. Morti i miei amici. Eppure qualcosa restava. Qualcosa viveva. Qualcosa che non si era spezzato. Non ancora. Forse mai più.